telefonò Francesco Fiori, era un vigile, però Francesco Fiori aveva anche la castagna discreta, quindi io dico la scena, Francesco Fiori, io piccolino, avevo 9-10 anni, dietro le sacche, dove ci sono le scuole di Leonardo da Vinci. C'era un camionista, passato a vedere le vigne, ha girato, stava bloccando il traffico, questo camionista ha preso, non so se è sceso dal camion, stava facendo un problema, è diventato un problema. È arrivato lui a piedi domenico nulla, è arrivato lui da piazza, tranquillo, e questo camionista si è alterato, e puoi immaginare, Francesco Fiori era fuggile, e non c'era da giocare, Francesco Fiori ti metteva la mano addosso, e poi te la metteva anche in caserma. C'è una storia che dice che una volta sono andati tra amici a Casersardo, siccome lui aveva combattuto con Benvenuti nell'esito di Giussa, l'aveva messo a Cappao, sono andati a Casersardo e si è scritto Benvenuti a Casersardo, lui, ah, taburilonga, io che ce ne andiamo. Sì, già, è una cosa che è una leggenda. Sì, l'ho sentito, lui dice che era giusto con tutti, però il giorno che ha messo le multe ha saltato, non l'ha messa uno la multa, tutte le altre macchine l'ha messa, questo qui è uscito fuori, ci ha trovato la multa, dove esci brutti, fuori fuori davvero, e gli ha detto, va a fare una cosa, ora muore a tutti i canti la multa, o io sono fotografendi e ti posso la denuncia, capito, gli ha detto così, no, ma non l'avevo visto, vabbè, falli la multa Buraito, a chi come ti dice Bigliatello, la multa la Bigliatello Buraito, e sono per marciapiede come me, ma siccome quel marciapiede apparteneva al negozio, quindi dalla piantina si sono resi conto che lui non aveva ragione per nulla. Sì, scusate, si faceva anche di queste cose, però era un pochino, dai, così, ma se lo prendeva la buona, diciamo che ti dava, io quando a Francesco Fiori l'ho conosciuto e avevo il motorino, facevamo gli scemi e ti dava lo scappellotto e andavi via e intanto lo so, diceva lui, dice, a te che ti metto il verbale, hai 15 anni e il verbale lo fa da tuo padre, siccome tuo padre lavora, quindi, e tu no, quindi chi ci perde tuo padre, a te ti con un ciaffo, così vi vieni di uno, babudo. Quindi era una cosa che, diciamo, era più sul personale, capito? Non era una cosa di verbale, diceva intanto se ti devono scappare a te, se metti il verbale a te lo paga tuo padre, quindi ma quando è venuto travagliente, quindi dico un ciaffo e magari dico di quello, ma da voi, e infatti era così, tornati a casa e gli dico, ma tu un ciaffo non vigi, la fa cosa, ti metti lì, tu ti arrivi la cabetta da buona, ma era una cosa da, diciamo che funzionava, era una cosa che funzionava, adesso no perché i genitori tutti erano troppi genitori, quindi l'educazione non c'è più. Ci vorrebbero un po' di Francesco Fiori e Raffelli, il carabiniere che ti diceva perché non c'è il casco e perché non la gelatina, allora bigliava in cui aveva un ciaffo, era poi di buona un casco in campo, era poi di andare a vinci, è mondo. Raffelli l'ho conosciuto anche io. Avanti, scusate se sono troppo monopolizzato, ma sono cose che ho conosciuto anch'io. Bazzoni in pensione se ne è andato il vigile. Ma Bazzoni per quanto mi riguarda non è mai stato una persona che si è fatta valere. Si è fatta valere solo nello scroccare basta e nel fare i fatti suoi. E quello dico e quello lo nego. mi fanno venire conseguenze di quello che può essere, perché Baffo mi ha fatto sempre un macaffone, un provocatore, se Baffo. E già lo conosco e è da molto che non lo vedo, immagino sia in pensione adesso. Allora, adesso sei in pensione solo, ripeto, solo, perché le persone come lui possono essere sempre sole, e la solitudine è una cosa bruttissima. Già lo credo. Comunque sì, i vigili molte volte hanno anche ragione in certi casi, perché io li ho visti fare verbali a ragazzini con la moto che stavano impennando in zone dove c'era l'uscita di scuola, eccetera, per farsi vedere, e lì in quei casi non gli puoi dire niente. Prima, come hai detto tu, ti davano lo scappellotto e poi lo prendevi anche dai genitori, adesso non è più così, per cui qualche multa in più te la prendi direttamente. Ma prima c'è l'educazione, lo sai cos'è, Carlo? Che io ho preso lo scappellotto dal carabiniere, dal vigile, dal poliziotto, avevo la vespa, andavo in garage con gli amici e la truccavamo, la guardavamo, 130, 125, andavamo e ci volevano impennando in piazza, e la vespa, quant'è questa moto? 150, tu un giaffo, quant'è questa moto? 80, tu un giaffo, quant'è questa moto? 125, va bene, adesso porta a casa tua e metti la foto. C'era prima il cormorano, mio padre del pescatore, andavano la mattina tutti i carabinieri a fare colazione, pulizia, volevano lottare, Francesco mi parlo del tuo migliore, usura, trovavo a casa e mi trovavo la moto, queste sono parole vere, con le gomme tagliate col coltello, il libretto preso e nascosto, e prendevo anche qualche schiaffo, capito? Qualche colpo, qualche voce. E quella era l'educazione, non toccavi la moto per un mese, uscivi a piedi, facevi brutte figure con gli amici e ciccia. Ma questo succedeva a me, agli amici miei, di chi faceva il danno. Mi dicevano, la prossima volta, se sono a terra, che non sono a mare, e mi chiamano, e mi dicono, tu porta in casa, ma prendi in casa, ma busco davanti a loro. Sì, era così. E addirittura mi ricordo, a miei tempi ragazzino, avevo preso anche uno scappellotto dal parroco, capito? Perché ovviamente stavo facendo cose che non andavano fatte, e te ne stavi anche zitto, non solo, se l'avesse saputo mio padre me ne avrebbe dato almeno un'altra passata a lui, ma non uno, no, almeno un'altra ventina, perché purtroppo era così. Però quello che stavi combinando non lo facevi più poi, perché capivi, a dire in effetti aveva ragione. C'erano gli altri ragazzi che stavano giocando col tavolo da ping pong al circolo, no? E io, siccome non mi facevano giocare, cosa facevo? Li accendevo, gli spegnevo la luce, capito? Facevo effetto discoteca disturbandoli, no? Finisce, è arrivato da dietro, io non l'ho visto, pam, perché stavo disturbando gli altri, capito? E aveva ragione. Però non succedeva niente, capito? Era uno scappellotto, ma anche un prete te lo dava, non solo il carabiniere o il vigile, o te lo dava l'insegnante, era uguale. Adesso se fai una cosa del genere ti denunciano subito, e passi dalla ragione al torto. Sì, però non, guarda, io ti posso dire una cosa, che ho conosciuto i carabinieri e i vigili urbani da quando ero ragazzino, perché ho sempre vissuto in mezzo ai motori. Un grande appassionato di motori, sia motorini che macchine, e ti posso dire una cosa, che quando ho iniziato a capire, sono anche diventato amico di questi carabinieri che c'erano ancora in servizio, adesso qualcuno è morto, qualcuno è in pensione, però tutt'oggi chi è, si trova ancora e che è in pensione mi vede, c'è un bambino e mi dice sei un bravo ragazzo, perché i miei genitori non si parlano di educazione. Diciamo che loro sapevano che erano ragazzate, perché le cose serie, diciamo i reati seri, io non li facevo, perché non si facevano, ti passava mai per la testa a fare dei reati. Non abbiamo fatto mai né oltraggi né niente, non ci avevano lo scappellotto, andavamo via. avuto problemi di droga, assolutamente, mai avuto problemi di alcol, assolutamente. Noi eravamo il coso e correvamo in moto, correvamo in macchina, e quindi erano le ragazzate, è giusto che si facciano pure. Ma noi siamo cresciuti bene con l'educazione che ci comunicavano sia loro che i genitori che tutte le persone più grandi di noi. Adesso queste cose non si capiscono, si danno troppa attenzione ai figli e per quello che sono male, perché i figli dicono intanto i miei genitori mi danno sicurezza, io faccio quello che voglio, invece no, ci vogliono più schiaffi e meno parole. Come si faceva con noi? Come si faceva, diciamo, io parlo di me, io avevo schiaffi e meno parole. Schiaffi e meno parole, perché erano altri tempi. Adesso magari la comunicazione è un po' più avvantaggiata, però prima funzionava così e siamo cresciuti meglio. Ti risponde male, ti prende a parolacce. Io mi ricordo che c'era una palma di fronte a casa e questi ragazzi si attaccavano e strappavano le foglie, e questo inquilino che abita nel mio palazzo gli ha detto: ma cosa abbiamo fatto quell'albero, lasciatelo stare. Poi è un inquilino che c'ha la campagna, gli piace la natura, cosa, e gli dà fastidio, capito, dà fastidio vedere una cosa del genere, e l'hanno preso a parolacce, capito. Scendi giù, gli hanno detto: farà giù su, non ti divido, non so cosa, ti faccio una macchina. E ho detto poche di cose. Sì, perché sono ragazzini che non capiscono niente, sono ragazzini che hanno poco senso di civiltà, perché secondo chi trovano, scusa, dico, beh, adesso scendo giù, a uno vi picchio, e poi se viene il vostro padre picchio anche il vostro padre, capito? Perché è già successo una cosa del genere, non da molto, che hanno dato far figlio a un padre di famiglia, perché i padri di famiglia, quelli che sono calmi, bisogna sempre stare attenti. Perché se esce un padre di famiglia che ha già una certa età, 50, 60 anni, e ti dice: per cortesia, smettila, non è che ti dice: ma tu sei un delinquente. Se esce un padre di famiglia e ti dice: abbi un po' di rispetto, vuol dire che quelle cose le ha fatte prima di te, e sa cosa vuol dire farle, perché sei un ragazzo, quindi ti dice: abbi un po' di rispetto, perché ormai sto riposando a mezzanotte. Ma se tu gli arretta, o no, se tu gli dici: va bene, mi scusi, quello magari prende, l'indomani ti vede, ti va una pacca sulla spalla e ti dice: voi siete ragazzi, state scherzando, e va bene. Però se tu non rispondi male, quello ha il suo carattere, scende giù, no? Ti prende, prima ti picchia, e poi ti dice perché ti ha picchiato. A me mi ha fatto ridere uno che abitava nel mio palazzo. Hanno rubato la moto al figlio dal cortile, hanno praticamente aspettato che entrasse una macchina, hanno messo un pezzo di nastro per tenere aperte della fotocellula, per tenere aperte le portiere, gli hanno rubato la moto. Una domenica risuonano il campanello insistentemente alle 9 di mattina e ci sono ancora coricato. Dice: se vuoi la moto mi devi portare 150 euro. Lui ha detto: sì, dov'è la moto? Ce l'ho qua, portami i soldi che te la ritorno. E lui ha detto: sì, sto arrivando. Ha sabbigliato un fusile farando con i mutandoni e con la canottiera di sotto, con questo fucile in mano, hanno attaccato a curri, toccavano di me a sedere da quanto stavano correndo, hanno mollato molte in tutto. Ebbè, perché se trovi una persona calma, è come già, ascolta un attimino, ma se adesso fai il conto, guarda, a casa io sono da solo in campagna, c'è mia moglie e mia figlia. Ebbene, una vera i ragazzi a disturbare, no? Sono in campagna, dice, perché questi ragazzi c'è sempre da prendere e fare sull'altro lato chi vanno. E dice: andiamo a disturbare lì, sono in moto, ubriachi, prendono e saltano il cancello. E vengono a disturbare qua. Io cosa devo fare? Io prendo, esco fuori, e me la gioco, chiudo la porta a chiave, mi tappo e me la gioco. fatto giocare lì già, non sono l'ultimo arrivato, non è uno, non è neanche di uno, non è né Gesù Cristo, ma non è neanche un ultimo arrivato, quindi usi la yoga. Però la differenza è questa, che tu sei venuto qua per fare casino e io ho in protezione la mia famiglia, quindi chi è più, diciamo, chi ha più motivo di essere aggressivo, tu o io? Non sei un padre di famiglia, perché se il padre di famiglia dice ma se questo qua viene e me lo fa davanti ai miei figli, davanti a lui, questa cosa del genere, se mi faccio vedere sottomesso, questi prima o poi la fanno con me, mi fanno loro davanti alla mia famiglia, è per quello, mi segui? Eh sì, ma poi ti comprometti e siamo sempre lì, non sai mai come comportarti, capi? In queste situazioni poi ti comprometti e ci passi dalla ragione al torto. Avanti Natale. Io sono sempre in ascolto. E sto facendo cosa? Dai, vi ascolto io. Perché tu c'hai le orecchie di porco. E se vai con e ti sta bene. La galera con un sorriso, ma me la vuoi davvero me? Se non è che parlo da cosa, intanto tu, io ti dico una cosa, io ho una parola. Tu mi porto la galera con un sorriso, però tu mani in terra. Avanti Carlo. E così è, così è. Sì. Comunque l'educazione dai tempi nostri ad adesso è cambiata parecchio, adesso non c'è rispetto, non è educazione, perché le famiglie già la danno l'educazione, però non insegnano il rispetto del prossimo e quindi tutti questi episodi vengono fuori così come l'acqua, capito, della pioggia. Oggi non senti altro che l'insegnante che gli hanno sparato i pallini con la pistola d'aria compressa, carabinieri che li hanno assaliti, vai al pronto soccorso e picchiano gli infermieri e picchiano i medici, perché sta venendo fuori una generazione che non rispetta il prossimo, non rispetta il lavoro del prossimo, non capisce le situazioni ed è anche una sorta di essere ignoranti a questo punto. Purtroppo è così, bisogna stare anche attenti a non trovarsi mai davanti con personaggi del genere, perlomeno io la vedo così. Carlo, non so cosa è il fatto, che sì è vero, oggi è diciamo una situazione un po' complicata, però i genitori non stanno dando la vera educazione ai figli, perché io me ne accorgo anche da mia figlia, quando mi dice qualcosa io magari qualcosa di... non lo so, che prima i genitori ti dicevano guai non si dice, ti facevano lo sguardo brutto, scusate, mi viene da ridere, prima no, prima c'era lo scappellotto. Io per esempio non mi arrivavo a dire no babbo, no, quando babbo diceva dammi guardare così, io stavo zitto, adesso mai diceva no babbo e io rido, perché fa lavoro, fa la faccia e si sbaglia, scusate, e si sbaglia, perché l'educazione va data, un po' sì se è vero, magari cacci e vai in bagno, cacci la lacrima, però ti fa vedere che hai ragione tu. I tempi sono cambiati, ormai le cose sono un po' più molle, un po' più, diciamo, alla mano. Io cerco di essere il più rigido possibile, ma non ce la fai, non ce la fai. Erano altri tempi, ripeti. Esatto, erano altri tempi dove, diciamo, queste cose erano di primaria importanza. Adesso sono passate in secondo piano e quindi accadono tutte le cose spiacevoli che sentiamo. Purtroppo è così, speriamo che si ritorni un po' all'antica, senza esagerare. Non dico che bisogna avere dei metodi crudeli, come come ai nostri tempi ti arrivavano le ciabatte o ti picchiavano con la pompa o col battipanni, e ne abbiamo subito noi di colpi e con oggetti contundenti. Adesso ci fa una cosa del genere, ti chiamano il telefono azzurro, capito? Purtroppo è così, hai detto bene, prima magari prendevi lo scappellotto, poi te ne andavi a piangere da un'altra parte, però alla fine capivi e non lo facevi più. Invece adesso non è più così, adesso è tutto alla minna futto. Guarda, io ti posso dire una cosa, a me i miei genitori non hanno mai picchiato la pompa, mai. A casa a pompe non ce n'erano, a casa erano i ciaffi voci, ciaffi già fa faccia voci, non venivano i monti, metro, i ciabatte, cose del genere, no, era una sfida da uomo a uomo, no, non venivano. Ti ripeto, a me, a me mio padre, la verità ci ha toccato, a me e mio fratello una, massimo due volte, ci pensava mia madre. Però quando c'è stato il contatto tra me e mio padre era uomo a uomo, mi segui, giusto per farmi capire cosa voleva dire, no? Abbiamo resettato, e quindi ci ha resettato un po' il cervello, perché io ero un po' per i motori, mio fratello era un po' più per le risse, quindi aveva fatto capire un po' cosa voleva dire fare un danno, e mio fratello gli ha fatto capire un po' cosa volevano dire i colpi, quindi ci ha fatto senza pompe, senza marzone, senza niente, ci ha fatto, diciamo che mio padre ci ha fatto capire cosa voleva dire un contatto da uomo a uomo senza avere pietà di niente, perché altrimenti non sapevamo cosa vuol dire avere un vero conflitto. Quindi siamo stati un po' inquadrati in maniera pesante per due volte, però ci è bastato per farci arrivare a una soglia di vita abbastanza, diciamo, abbastanza equilibrata. Mentre poi c'era il padre di mio padre, che era una persona abbastanza dritta, una volta ci ha solo guardato. Era non era alto quasi 2 metri, aveva facendo 30 chili, aveva la mano che era quanto una pagnotta, ci ha solo guardato e ci è bastato. Siamo cresciuti con un grafico di inquadramento abbastanza dritto. Riprendi già. Aspetta già. Capì, a me mi pare che babbo me la precisa babbuduio, va via la mano contundente. Natalie, babbo e nonno, fasi ripiccatore, fasi a nonno faceva perché ormai non c'è più, loro padre fa il pescatore da quasi 40 anni, ma rimani, non lo so, vorrei presenti, ti posso fare l'esempio di una pizza margherita con i bordi un po' grossi, quella che fanno la napoletana, la grandezza più o meno quella con le dita così grosse, non si trova differenza tra il mignolo e il pollice, e mio nonno era una persona che diceva, una persona con i paraocchi, che diceva o isu, non acciappava i cusi, sì, no, ma forse, ma quello, e così sono cresciuti loro, non avevano, diciamo, non prendevano più ragione, cioè ti ascoltavano, ti facevano dire la tua versione, però poi se la tua versione era, diciamo, compatibile alla loro, ci si poteva trovare un punto d'accordo, però se non era compatibile era come ti disavieti e se li puniti erano i coetti. Ti dico solo una cosa, proprio bisava 100 kg ed era pure bugile. Una volta mi ha fatto un ciaffo che ci toccasse lungo e in fondo al laboratorio con un ciaffo, ha detto che era pure un piano, figurati a disimili curi a voi. Natali, io guarda, tu secondo me tu puoi fare anche da babbo, perché io ho 40 anni e tu mi puoi fare, e tu sicuramente mi puoi fare anche da padre, però io ho ricevuto un'educazione abbastanza rigida. sia per vita sociale sia sulla formazione lavorativa, cioè nel lavoro deve avere una certa educazione, anche nella vita sociale, quindi ho avuto una certa educazione sia, ripeto, sia sul sociale sia sul lavoro. Io sono stato sempre abituato a fare 13-14 ore di lavoro al giorno e tutto ciò ringrazio, ai tempi prendevo, bestemmiavo, però oggi ringrazio perché ho conosciuto il troppo e oggi conosco il giusto, mi segui. Un po' di queste cose qua, un po' di questa educazione ragazzi miei ci vorrebbe, perché se tu mi chiami a lavorare per fare 8 ore vogliono le 200 euro. Prima se io facevo 8 ore di lavoro, può darsi che a fine settimana mi uscivano i soldi per mettermi la benzina alla moto, può darsi. E già è così, capi, già è così. Io gatta, già non so cosa vuol dire travagliare 12, 14 giorni, no, per problema. Abito a Cina del Dreari, 4 di Manzano, quindi sono stato educato come sei stato educato tu, abituato a travagliare con putazzi bene. È positivo, tu pensa che io ho fatto 12 anni di SICES, 12 anni di SICES, tra i quali 8 trasferita, e poi ho fatto 4 anni di magazzino del pesce. Entravamo alle 5 del mattino e a mezzanotte e andavamo a ritirare il pesce dalle barche e rientravano. E alle 5 lo venivo in magazzino. Quindi, ma lasciamo perdere che sono altre cose. A me io non ho niente contro chi prende questo reddito, queste cose qua, però io ti posso dire una cosa, che da uomo, no, se io avrei aderito a questa cosa qua, a questo reddito, a questa cosa qua, se mi era avvisato un uomo dalla tuba, mi aveva fatto una giusta, mi aveva fatto un luogo. E a Rusoku non esistia questi tempi, questi cosi, bisognava andare a travagliare e basta. Quella legge è sbagliata, l'ho sempre detto anche io, avrei aiutato solo la gente che ne aveva bisogno e basta, però se uno vuole andare a travagliare deve andare a travagliare e buh. Esatto. Io quando ero ragazzino, mire, quando io sono stato senza lavoro, poi ti parlo, tornato da militare, sono stato senza lavoro, ma non senza lavoro un mese, no, mi ghidi. Sono baciato una ghida, mi pare, guarda, non devo dire una stupidaggine, ma secondo me 15 giorni avevo superati. Ha pigliato e mi ha detto, ma tu cosa devi fare in casa? Sto cercando lavoro. Ma io breti non ne voglio in casa di Busadoggio, quindi vedi tu cosa devi fare. Vabbè, lo cerco. A me se non vedete di già 2 euro. Anzi, fa una cosa, domani mi viene da tale cosa, Runchina, a pigliarti una macchina e andare con gli preta in campagna vetro. No, ma vedrai, che quando lo trovi poi cambia, vada domani tu figli e anda, vabbè, a tutti i dinni. Farò sicuro. Ma cosa da voi magari uno si c'ha sai tempo per giruvizi, io vedi travagliare la vita. Esatto. Beh, dai, passiamo la parola, passiamo il mic ad altri, altrimenti vi mettiamo un po' voiosi. Avanti Gianni. Va bene anche ascoltare, non c'è problema. Io dico la mia, mio padre ha usato anche la cintura dei pantaloni, uno da una parte e uno dall'altra, lui con la cintura e mia madre col mattipanni, per una nota che ho preso a scuola, perché mi hanno trovato chiacchierando, non so cosa, e mani di Sighillu e io ho fatto il giro del tavolo, rimettevo le sedie per non acchiapparmi, mio padre è caduto, ancora più incazzato, ha preso la cintura, anche se era cavata dei pantaloni, ma è tutta la giusta, la lì, sono ubriacato in antaloretto matrimoniale, loro, e uno da una parte e uno dall'altra mi hanno pestato forte. Lo so, già a me è capitato varie volte e mi hanno svegliato per la notte, sì, allora mi hanno detto vabbè, tu non studia, che da voi verrai a studiare da contusi ti bruciano, io vi vedi, non ci credevo, ha preso, mi hanno bruciato, mi hanno bocciato come voleva rinunciare, ma ho fatto bene. Adesso tu vieni con me, sabato vieni con me, quello di Ginocchi se buca di subito, avanti capitaneria, ti vai a metto le ammirazioni e vieni a mare con me, vieni a mare con me. Ma non esiste, ma facciamo studiare, venite a mare, vieni a mare con me e mi ho fatto tutta l'estate uscendo a mare, capito? Gli amici miei andavano in discoteca, non c'è discoteca, bugia, c'era una saletta dei ragazzi che si andavano a ballare. Tutti gli amici alle 7 in giro e io no, non vengo perché devo uscire a mare. Quando entro con la mare mi sbatto con la faccia al piatto, capito? Mamma mi dava la mangiare e mi sbatto con la faccia al piatto. Mamma gli dice vai, ma lascialo stare, no, non vengo con me. Io sono stato fino a tre giorni, poi entro alla scuola e scendo a mare. E almeno impari. vabbè, allora erano più rigidi come insegnamenti. Vabbè, io sono un po', diciamo, alla violenza sono contrario, dai. Si dovrebbe capire con le parole la cosa. Io i miei figli li ho presi molto con le parole, fargliela capire come si doveva fare la cosa, dove sbagliavano, eccetera. Ho preferito fare così. Mio figlio, io poche volte gli ho messo le mani addosso. Avanti, capo. Noi invece in famiglia eravamo 5 figli, quindi siccome le combinavamo parecchie, soprattutto d'estate quando non c'era scuola, quindi chi inventava una cosa, chi danneggiava l'altra, eccetera, in casa, mamma gli facevano male le mani a picchiarci tutti insieme, quindi usava il battipanni, capito? Se no gli facevano male le mani, diceva così, oppure la ciabatta, se non trovava il battipanni si toglieva la ciabatta e ce la lanciava pure, perché ovviamente la tendenza dei bambini era quella di scappare, dai. Ricordi che insomma non ci hanno mai rovinato, anzi forse ci hanno solo migliorato, non era quello, almeno capivi che stavi facendo qualcosa che non andava fatto e quindi correggevi il tiro, tutto lì il discorso è sempre quello, dai. Natalie, chi di ciabatta, chi di cinghia, chi di battipanni, chi di ciaffone, insomma le prendevamo sempre. Mano contundente, Bibù. Per esempio Gianni, troppo a parole no, a chi non comprendi né a parole, ma comprendi la vera educazione, Bibù, mano contundente. No, la capisco l'educazione, Natali, fregatene. I miei figli sono educatissimi, anche i professori quando andavo con lui mi diceva cosa si può dire di Marco, è un ragazzo educato, non si mette mai in mezzo alla mischia dove fanno macello, eccetera eccetera. Mi hanno sempre parlato bene di Marco, sia di Marco che di Manuela. Noi non ci siamo buoni a educare. Hai capito già? L'educazione la sapevano dare quelli di prima, non noi. Erano altri tempi, si conoscevano quelle cose, adesso ci sono altri metodi, metodi moderni che non servono a niente. E infatti, io uso garantiga, è meglio l'altra educazione che io sappia. Quello di Gianni è stato fortunato. Ma io poche volte uno schiaffo gliel'ho dato, ma poche volte, tutto si contano sulla punta di vita, capito? Io li facevo ragionare, cioè secondo te quello che hai fatto è giusto? Li facevo ragionare, si abbassavano la testa perché capivano che non era così. Non buscavo anche la nonna. Guarda, io te lo giuro, io buscavo anche la nonna, ma non perché eravamo cattivi, perché c'era un'altra educazione. Io buscavo anche la nonna, ma non eravamo noi, io a scuola ero educatissimo, io a scuola ero educatissimo, poi non dicevo ah, io alle maestre, alle professoresse, non dicevo ah, quando mi sgridavano stavo zitto, zitto, abbassavo, cambio uscire da cura, ero, ti pigliavo la bicicletta, la moto, ero, poi cambiavo, come, e allora il problema mio era quando mettevo il casco, non capivo più niente, mi diventavo boh, un animale, quindi io di lì mi trasformavo, capito? Perché a scuola ero bravo, io in matematica ero un campione, io ero un campione in matematica e in algebra, metto la geografia, queste cose fanno, ma io in matematica e in algebra ero un campione, io ero uno dei migliori, uno dei migliori, capito? Mi diceva, ma tu queste cose dove le capisci? Cioè la prendevo tantissimo, sia la matematica che l'algebra, però altrimenti io non mi scappo per la scuola, non mi scappo per fuori. Avevo io come mettevo il casco e prendevo la moto, diventavo un teppista. Io andavo, io prendevo e puntavo, io avevo la vesta, avevo lo special, e puntavo il piede, ero in due. Dietro al pullman, capito? Al pullman, pigliavo e buttavo il pullman, e mi mettevo a fare a sgombare in piazza del comune, a Porto Flores, proprio delinquente. Però nella vita privata, cioè diciamo, mi accendevo la moto, una persona educatissima, a me quello che mi fregava erano i motori. Io quando ti potevi buio un casco, neanche prima anni dalla patente, ma era un'anima da nada, uno uscito dalla riga. Vabbè, le moto piacevano anche a me, ne ho avuto 9 di moto, figura di tu. Piacevano anche a me le moto, mi sono sempre piaciute. Poi a un certo punto ho detto basta perché non ne volevo più. E cominciavo i dolori alle mani, le dita io ce le ho dalla moto, mi così anche se mettevo i guanti. Le dita mi si blocca la mano tipo come se non ci fosse circolazione, mi così. Io ho giocato la mamma che ha fissino mano, io ho giocato la mamma a 28 anni, a me mamma è venuta a picchiarmi a 28 anni, ho giubilato e ho detto, beh, no, aspetta un attimino, è giunta con una voce, ho detto, no, aspetta, di lì ho messo un po' le carte in chiaro, ho detto, e ho tenuto il mattone, ho detto, no, adesso non sono più un bambino, adesso con me se vuoi parlare parliamo. Poi ho tenuto il mattone. Però è venuta a me a prendere, a darmi l'educazione all'età di 28 anni. Ho tenuto il bastone e ho fatto, no, non mi cava Budu, e di viva Babu, però tu a me non mi tocca, basta, finito, finito la giostra, capito già, per cosa che per le persone che dicono, ma qua, ma là, ma l'educazione, io sono stato reduce di colpi fino a 28 anni, però ho detto basta, finito, non sono bambino, adesso ne parliamo. Oh, non sai mamma cosa faceva siccome gli bloccavamo le mani per non picchiarci. Allora si sentava candela mi cuccardi, una voce hai sbagliato, invece qui a Mario che sui fatti fumicatori a Porto d'Orra hai sbagliato a Cutta Angela, a Rumizzano, cazzo. Oh, guarda, la Cutta che sta giusta ed era Angelo però, perché ha sbagliato, capito? E ha picchiato a lui. Perché non era massicolo? Oh mamma ha sbagliato, siccome non ci riusciva a picchiarci perché gli bloccavamo le mani, no? E non ti pudi accudire. E allora si tentava candela a micromidi e ti cudì a roba di sussa con la porta con i daccone, mi grudaccone di cudì, mamma mia! Poco da pato! Cazzo invece cudì a Mario che era il più ribelle, a Ruminori, cazzo a Cutta Angelo, hai sbagliato cazzo a Cutta Angelo. Sì, poveraccio. A me io mi ricordo una volta a colazione, dovevo andare a scuola e mamma mi ha preparato il latte, c'era il coso, un tovagliolo a fianco per pulirmi la bocca e poi biscotti e cose, e ho preso preso io questo tovagliolo e l'ho messo sulla tazza e mi ha detto il latte è bevuto, l'hai detto ma non ne ho voglia, non ne bevo, e lì disgraziato muoviti che tali pugna giaffo, e gli stavo facendo uno scherzo, oh, non è vero, l'ho bevuto, stavo scherzando. E tu ma cosa tu cucina roba di giaffo, non ti impari. Ed è per questo che vi siete ingrossati. E allora? E anche tu l'hai mucata assai. Mi chi la conoscita ma buddo io mi. Hai capito? Era mi guerrino papo. E non c'è babbo era. Marillo. Se ti buoni la mano chi si arruinava. Un attimo di cuoresco per me. Ciao Manuel. Ciao. Gianni, e beh Natali. Ciao Manuele, cosa ne dici? Chi pudiamo i ribellazzi? No. Oh, cazzo, va via le due mani, ma neanche cazzo, due mani rimane la meccanica. Ciao, non ricordo anche a tuo padre, e tu vai. Cazzo, una volta va con un ciaffo, di che ci devo rendere, cazzo, la sua terra. Era sotto l'acqua, non riesce a vedere più, ricordo. E allora? Cazzo, papà, era bugile, ragazzo. Ma aveva la mano e pariva una bala meccanica. Altri tempi, altri tempi. Allora, avevamo i tipi di anafavizzani, invece papà ti cudia un capiotto e piano, a chi si ti cudia a volte, ti ne vedava un gabbo. Buonasera Manuele. Oi, buonasera Carlo, compagno Natalino, Natalino. Carlo già c'era da prima, e anche Gambino. Ma pensavo che mi quasi ne ridici, goni. Scusate, ero un attimo in bagno. Altri tempi, adesso sono solo ricordi questi Natali, adesso non toccano più nessuno, è per quello che poi stava venendo fuori questa generazione di giovani che per carità, oh iaia, vai Emanuele, raccontaci qualcosa di bello. Scusate, ero un attimo in bagno, se vabbè di conto. Arriva, che erano altri tempi. Adesso se ne tocchi o ti denunciano o ti piccano a te e tu ti devi stare anche zitto. Davvero? No, ho sentito Gavino che ha detto qualcosa ma non ho capito perché vi siete un po' sovramodulati. Ho detto scusate un attimino, sono mancato perché ero un attimino in bagno. Occappa Gavino, non è un problema. È entrato Manuele, quindi stavamo con lui continuando un po' quel discorso di prima, dai, giusto per fare anche due risate. Ciao Manuele, buonasera, io non ti cuffio, però se mi sgusci, buonasera. Sì, ciao Gavi, mi sento più anche io, perché a parte che ho un problema mio, la terra ce l'ho nel bocciaio, quindi non mi posso lamentare, ascoltare anche agli altri. E già tanto che sempre a Carlo e a Natalina che siamo, vabbè che siamo vicini, dai, di mia radio. Allora di Emanuele, se posso avere un video finale, però non riesco a copiarti, c'ho un problema altissimo io qua. Scusami, ma non ti ho copiato. Emanuele Gavino ha detto che ha il QRM molto alto, quindi non riesce a sentirti, capito? Ha sentito forse qualcosina e basta. Emanuele mi diceva, Gavi, che là, ecco, diciamo, la situazione è precaria perché ha l'antenna dentro casa, quindi ha detto che già tanto si sente Natalino, si sente me e Gianni, capito? Però avendo quella situazione lì non può fare di meglio adesso. Vabbè, dai, si migliorerà, piano piano si migliorerà, non è un problema. Dai, con gentilezza, con cortesia, voi comunicherete quello che gli dico, quello che gli dico nei suoi confronti, e ciccia, così. Comunque dai, saluti a Emanuele, cordialità, vedremo di scambiare quattro parole direttamente in antenna quando sarà possibile. niente, Emanuele, stavamo parlando di educazione che ai nostri tempi era un più severe. Riprendi, Carlo. Sì, Gavino. Aspetta che ti faccio da ponte, ma Emanuele ti sente, mi sa, vero Emanuele? Sì, sì, io sono copiato tutto quello che ha detto. È così, Gavino. È così. Purtroppo la generazione è cambiata, è un bel cambiata. Adesso i figli di adesso, forse i genitori le prendono a parolacce e via dicendo. Dicendo una cosa del genere, nei tempi passati, tempi indietro, negli anni 70, a dirle una cosa del genere, vai a scimere la culo a tuo padre, a questa la me l'avrebbe già tolto i diritti. Vai, Carlo. E infatti, niente, Gavino, comunque Emanuele ti sente, tutto quello che hai detto già ti sente in diretta, capito? Quindi il problema è suo, ti ripeto, perché ha l'antenna interna. Va bene, rilanciamo, vediamo Gianni se è rientrato. Sì, ci sono. Sono rientrato, sto morendo di freddo, boh, mi ho messo la coperta adesso perché l'ho coricato e sto morendo di freddo. Meno buono ci vuole già. No, già va bene così, ci ho messo di quelle coperte che sono di quelle morbide, mica, che scaldano molto. E tu sei un po' colone, sì, vuol dire che sei un po' colone. Io sono qua in camera, sono in maglietta mezzo maniche, no, sta bene a casa, però quando si esce fuori c'è un po' di qua, ci sono 5 gradi, ho il termometro esterno, 5 gradi c'ho qua, diciamo SP25, sotto colore, c'è freddo fuori. Magari ghiaccia anche l'erba lì, perché io me lo ricordo quando andavo a lavorare la macchina trovavo sempre l'erba ghiacciata. Ghiaccia l'erba e ghiaccia anche la strada. Adesso se piove stanotte oppure piove adesso e ghiaccia e poi smette, ghiaccia stanotte e domani è un problema. Infatti qua adesso faccio un attimino di bianco e vado a coprire, ripeto, le batterie delle macchine, perché altrimenti domani è un problema. Riprendo tra poco. Bene Tony, già siamo qua, anch'io sto un altro pochettino. Stanotte c'è la, non so se vi piace il calcio, la partita di Coppa Italia, Juventus Monza. Ieri mi sono visto la finale di Supercoppa italiana tra Milan e Inter, ha vinto l'Inter 3-0. No, io non sono sportivo da quella Torino, non mi piace il calcio, non ci prendo gusto, io guardo l'Italia quando gioca ai campionati, ma poi per il calcio non vado matto, dai, ci ho giocato da giovane, avevo la squadra di calcio, però guardarlo non mi piace. Ho capito, ognuno ha il suo, per carità. Io niente, da piccolino così, io a giocare ho giocato poco, a pallone in strada con gli amici, però proprio partite in campo sportivo eccetera no, pallone come si giocava un tempo in strada, che disegnavi le porte, capito, e giocavi così. Poi però il calcio l'ho sempre seguito, sia la nazionale che il campionato di Serie A, e le altre categorie però serie minori in maniera più superficiale, però la Serie A, le partite di Champions già le guardo, anche quando non ci sono squadre italiane che purtroppo vengono eliminate, magari le semifinali o finali già sono belle partite e mi piace vederlo, giusto per variare un pochettino, se no sempre i film o documentari oppure come si chiamano, serie TV che ce ne sono a uffa sulla televisione, quindi ogni tanto un po' di calcio me lo guardo volentieri quando c'è. Mio padre era come te, mio padre era interista sfegatato e poi sia pugilato che ciclismo seguiva, queste tre cose. E quando c'era l'Inter che giocava, mi ricordo, si metteva l'auricolare della radio e in più guardava il televisore, io non comprendo come ti fazia, vabbè, se lo disturbavi guai, ti tirava quello che aveva, acqua, pane, quello che c'aveva ti tirava. Esatto, in passato piaceva molto il pugilato, poi un po' ha perso, mi ricordo quando c'era Monzona, la televisione in bianco e nero, che ero ragazzino di 8-10 anni, no, e babbo si guardava questi incontri là, eccetera, mio padre lo stesso, guardava il calcio e si guardava il pugilato lo stesso, ma anche seguiva quando c'erano altri eventi sportivi tipo le Olimpiadi, quelle cose lì, l'atletica leggera, le corse, quella roba già la guardava. E io lo stesso, più o meno, sì, anche io quando ci sono eventi così, già me li guardo anche quelli, non tutto, non tutti gli sport mi piacciono, però un pochettino, diciamo, già sono sportivo da quel punto di vista, almeno a vederlo giocato dagli altri, dai. Poi io qualche pedalata in bicicletta faccio e basta. Almeno tu quello la fai, io no. Come ti stavo dicendo, mio padre si alzava anche alle 4 di mattina, quando facevano gli incontri così presto, no? Si alzava alle 4 di mattina, perché allora non si poteva registrare, quindi lui si alzava la mattina presto per vedere gli incontri. Mia madre diceva, Mario, ma dopo dovevi andare a lavorare, come, non ti preoccupare, faccio tutto. Prima era così, esatto, prima non c'erano le comodità di adesso, e quindi trasmettevano un incontro e lo davano a quell'ora ti dovevi alzare, anche quando ci sono stati i mondiali nel 70 in Brasile, mi ricordo, che erano, insomma, quando qua era, là era giorno, qua era notte fonda, quindi le partite molto, molto tardi, a noi ci facevano coricare perché eravamo piccoli, però mio padre e mio fratello grande già se le guardavano, capito? Poi l'altra cosa che si guardava, Camillo e Don Peppone, poi guardava queste cose qua, Mad Spencer e Tennessee le piacevano un bel. Praticamente quello che passava al convento, dai, allora era così, non è che c'era grande, i canali erano pochi, c'era la Rai, Rai 1, Rai 2, poi Rai 3 è uscito molto, molto dopo, quando erano usciti i canali Fininvest, capito? Se no prima erano solo quei due canali e non c'erano molte alternative. Allora io avevo mio zio che praticamente abitava a Detroit da quando aveva 18 anni, nel Michigan. Quando veniva a trovare mio padre che veniva a casa, ogni tanto, ogni due anni veniva, si tratteneva un po' di tempo, ci diceva che praticamente così pochi di canali ne avete nel televisore, in America ce ne sono già tanti, cavolo, tutte cose, ci parlava degli scippi e noi non capivamo manco che cosa era, non sapevamo manco che cosa erano gli scippi, lui ha detto che lì li facevano a piedi, che una volta questa ragazza ha preso a scippato una donna, stava scappando, è passato un camion e l'ha schiacciata davanti a lui. Dice, guarda, ho visto delle cose in America che e lui è partito che faceva lo scaricatore di porto, poi è diventato un cappuccia di una fabbrica, comandava tutti gli operai. Perché là in America vince la meritocrazia, nel senso che inizi dal livello più basso, però se poi sei una persona che sa fare, riesce a, insomma, a distinguersi dagli altri, alla fine fai anche carriera, cosa che qua in Italia invece non c'è mai stata la meritocrazia, capito? Qua tu hai un posto di rilievo solo se hai quattrini, se sei ricco di famiglia o se hai delle conoscenze politiche che ti mettono in un posto, che poi diventi azionista, eccetera. Invece negli altri posti tu la carriera la fai se veramente, diciamo, hai le qualità e sei entrato in un posto dichiarando veramente quello che tu hai di qualità e sai fare, capito? Vabbè, certo, i meriti che hai ti danno. Sì, è vissuto sino a quando è morto lì in America. Anzi no, la mamma mia, praticamente quando stava invecchiando è andata a Cugiolo, perché mio padre era milanese, era zona di Milano, di un paese di Cugiolo, è il paese di Angelo Branduardi, dai. Lui ha detto che Angelo Branduardi l'ha preso in braccio da piccolo e praticamente se n'è andato in questa casa famiglia, non casa famiglia, proprio una pensione, tipo albergo, però rimaneva, c'aveva tutto in camera, c'aveva bagno, televisore, tutto quanto. E poi ha lasciato tutti i suoi averi a questa diciamo casa famiglia, come la vogliamo chiamare. In passato molti facevano così, se non aveva nessuno, insomma, familiari eccetera, oppure anche se avevi anche familiari però non ti andava di scocciare nessuno, te ne andavi così in una struttura, si prendevano cura di te e poi lasciavi tutto là. Lui quando è partito in America c'era una delle sue paesi, ha vissuto con questa famiglia sino a quando è diventato grande, e poi c'aveva la fidanzata, quando stava proprio per sposarsi ha avuto un incidente, è morta e da lì non ne ha voluto più sapere. Bubu. Chi è che sta abbaiando? Bubu. Bubu. Che sta manco. Bubu. Ma. Oh yeah. Bubu. E che è cocchetto? Antonino. Poi là, ciao, buonasera a tutti. Ciao Antonino. Io ho ordinato già la penny comunque. Vabbè, buon appetito. Vabbè, me la porta lì comunque. Ah? Oggi è giovedì, mi già. E dove l'ho ordinato? Non mi ricordo se devo andare in via Rurra. Ah? Vabbè, devi passare a casa prima, lasciarmi un po' e poi. Carlo, avanti. L'hai preso, buonasera Tony, la Fainetti stai ordinata. Cappa, e poi tra l'altro, sì, ho preparato anche qualcosa per il cane suo. Zitto. E quando fa freddo così la Fainè è un'ottima cosa, eh. Hai fatto vedere la gana adesso Tony di Fainè. Lo so, anche a me ogni tanto lì metto le pizze, sono sempre pizze. Vedo Fainè, prendi la volo subito, non mi sembra vero. Io almeno mangi roba calda e roba buona. Peccato che non c'è il pane, comunque mi ha detto delle fette biscottate, le metto in mezzo a due o tre fette e via. Via. Ciao. Ma non ti passa mai, è già la fede pesante. Comunque io sono molto arrabbiato con l'ospedale, Gianni. Perché? Cos'è successo? Non te l'hanno finito? No, perché mi hanno dato oggi cartella clinica. Tu vuoi che questo non è cartella clinica, questo è un cicizzo che è un verbale del pronto soccorso. Non c'è scritto che mi hanno ingessato il piede, non c'è scritto che mi hanno messo il tutore, cioè non è giù preso. Io ho pagato ciò che l'ha ricevuta, tanto di foglio firmato da loro, e firmato che io ho richiesto la cartella clinica, giustamente per 10 euro metto di pagare la Palazzo Rosso, ci sta per il foglio, ho pagato la borsa e poi mi dai 4 fogli, ma stiamo scherzando. Io ho già parlato con l'avvocato e ho detto guarda che se l'ho sbagliato io denuncio, non mi frega niente, tutto va bene, ok, perché io non voglio essere preso in giro e devo perdere altro tempo, perché io sappia tempo dietro anche con Carla stavo parlando e la cartella clinica io tempo fa l'avevo tirata di zitto e poi sono tante pagine, c'è scritto foglio per foglio e tutti i giorni si è trasmesso tra te per la tua partita che ti ho dato, quello che ti ho fatto eccetera eccetera, il gesso e poi il tutore e invece non mi è scritto nulla. Oh yeah, insomma non fanno male cose come devono fare, sempre a mettere i vasi. E io quando mi ho detto sopra, ritiro la cartella clinica, ho detto quella cosa non è una cartella clinica. E lei insisteva, sì, cartella clinica, ma scusi, la mia ignoranza, ma cartella clinica ci indica ogni giorno cosa mi hanno fatto, misura la febbre, prelievo del sangue, le pastiglie, l'ecografia, la nastre, qua non è scritto nulla, c'è scritto solo quello che c'è scritto per il soccorso, fra le fratture che ha avuto e ciccia. 30 giorni di cura e qualcosa nel gioco. Ma. E quindi li presenti quelli? Io purtroppo dovrei andare alle 8 domani mattina perché una mezz'ora mi sveglio tutto. E comunque già tutto ok anche per Carlo, capito? Non dico altro, ok già. E stavo dicendo, alle 8 domani mattina vado, sono già all'ospedale, vado proprio nel reparto medicina urgenza, reparto UBI, che tutto quanto sempre in ghibli, comunque non lo sapevo comunque. niente, dico, questa è la cartella clinica, me l'ho confermato, me lo mettete per iscritto, perché sono andato al medico legale lunedì. E se caso non c'è io faccio la denuncetta, Voi mi prendete quello che internet e poi mettete anche l'articolo sulla vostra premiera in Spagna, che fate? Magari ti fanno un foglio dove c'è scritto, si dichiara che il signor Tonino è stato ingessato presso questo ospedale, eccetera, eccetera, te lo scrivo. Ah, non lo so già. E non è con la frattura del malleolo che se non si guarisce 448, a me subito mi hanno mandato a casa assolutamente, non vi credo. Vedrai che vieni a capo, Tony, di questa situazione. Se l'hai chiesta la cartella te la devono dare per forza. E eventualmente vai dove ti ho detto e con quello che hai pagato, a dire io ho chiesto una cartella clinica, 10 giorni di tempo, ma se a uno serve con urgenza me la dovete fare anche prima. Sì, ma scusa un attimino, si ritira nell'archivio che c'è ritirato, giusto? Infatti, comunque non so se hai sentito, c'è Emanuele, Gavino e anche il signor Natalino. Ok, scusate gli amici, che questo perché poco, perché non sapevo chi c'era qui e non mi hanno detto niente chi c'era. Comunque, salutone a Natalino, salutone a Gavino e salutone a Cingomino. Bella questa. Gavino, riprendi. E forse Gavino allora si è spostato.